Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. T'ho mai detto che mi ha colpito il fulmine 7 volte? Una volta, mentre ero nel campo a pascolare le vacche. Onore, è stato un fulmine a ciel sereno ieri quando sono stato chiamato per dare la mia disponibilità ad allenare la Juventus. T'ho mai detto che mi ha colpito il fulmine 7 volte? Una volta mentre guidavo pensando agli affari miei. Un fulmine a ciel sereno. Hai detto? Mi ha colpito il fulmine 7 volte. Una volta mentre portavo a passeggio il cane. Voi lo conoscete bene, sapete che vive a una velocità straordinaria, brucia tutto con una facilità estrema, quindi si chiude un capitolo vincente, se ne apre immediatamente un altro. Abbiamo dovuto agire con una velocità estrema perché la stagione è iniziata già da qualche giorno e allora abbiamo identificato quello che poteva essere, che poi si è appunto rivelato essere il profilo più adatto per sostituire un allenatore vincente come Antonio Conte, come appunto Max Allegri, che voi ben conoscete. 800 24 0024. Carlo Genta torna domani e poi sarà lui alla guida di tutti i convocati. Oggi, dopo il giorno delle parole, le avete sentite, altre ve ne faremo risentire. Oggi è il giorno del lavoro e dei tweet, perché due ne ha fatti Massimiliano Allegri nell'ultima ora. Ha scritto: che emozione tornare in campo e dirigere un allenamento, mi mancava. E poi ha scritto anche: carico per la nuova avventura, hashtag fino alla fine. È cominciata la lunga manovra di avvicinamento ai tifosi della Juventus, quelli che anche ieri lo hanno contestato lui, hanno contestato Marotta e hanno contestato Andrea Agnelli. Allegri, che dirigerà in realtà soltanto questo pomeriggio il primo allenamento, perché questa mattina ha fatto tutto il suo staff e lui si è limitato a una serie di incontri nel centro di Vinovo. Alcune cose sono già cambiate, ad esempio la sede del ritiro, che non è più nell'hotel in centro a Torino, ma che Allegri ha voluto far spostare in un hotel della periferia. 800 24 00 24, vi piace sapere cosa ne pensate, se le avete viste, se le avete sentite quelle parole, cosa ne pensate della prima di Allegri ieri nel giorno della presentazione, se ritenete che sia o no l'allenatore giusto per la Juventus, ma non lo chiedo soltanto agli juventini, perché so qual è il loro pensiero in questo momento. Intanto lo chiedo a Giovanni Galeone. Buongiorno mister. Buongiorno. Uno che Allegri lo conosce come le sue tasche. Piaciuto ieri nella prima? Sì, un po' emozionato direi. No, era talmente importante la piazza dove è andato ad allenare che ci sta a essere anche un po' emozionati. Poi c'è un'eredità che è pesante, quella di Conte, anche se non ha mai parlato di eredità da raccogliere Allegri, mi pare ieri nella mezz'oretta in cui ha parlato, e anche questo secondo me è un segno di partenza anche sorprendente. Sarebbe stata forse la via più semplice, dire raccolgo un'eredità pesante, farò il mio meglio. No, lui ha scelto un modo diverso di comunicare. Perché è un ragazzo intelligente, non è un ruffiano. È chiaro che la Juventus adesso viene identificata con Conte, la cosa è molto strana, perché nessun allenatore vince se non ha dietro una grandissima società, non c'è niente da fare, questa è la storia del calcio, questa è la storia anche di tantissimi altri sport. Quando era in vita il grande Ferrari, Enzo Ferrari naturalmente, diceva che la cosa importante era la macchina, poi veniva il pilota. Oggi si vede che se hai Alonso puoi avere Alonso tutta la vita e la Mercedes vince, c'è niente da fare. Quindi il conduttore va benissimo, ma tu devi avere dietro una società che sappia comportarsi, che sappia intervenire e al momento giusto sul mercato, prendere i giocatori giusti, avere un programma eccetera eccetera. È chiaro, adesso dopo Conte è stato uno che è piaciuto molto al popolo, ai tifosi, eccetera, e tutti identificano la vittoria della Juventus come una vittoria di Conte. Ma Conte ha avuto dalla Juventus 30 giocatori in tre anni, non uno, 30, e tutti di primissimo piano. Per cui io non credo nemmeno che il divorzio tra Conte e la Juventus sia dovuto al fatto che non erano d'accordo sul mercato e su queste cose qua. Non ci voglio credere, ne ho sentite altre, ma non ha neanche più importanza. Dopo tre anni di successi in quella maniera e miglioramenti avuti soprattutto negli ultimi due anni, nel primo anno sì, bene, ma non benissimo, diciamo. Negli ultimi due anni invece molto, molto, molto bene. Però c'è da dire, se uno vuol fare il pignolo, c'è da dire anche che in tre anni non è riuscito a modificare l'atteggiamento della squadra in Europa, che è una cosa molto importante. Sì, che è stata la pecca, sono arrivati due anni con due delusioni diverse, poi le abbiamo analizzate per mesi e probabilmente anche in quell'interpretazione c'è l'inizio della crisi tra Conte e la Juventus. Mister, io però le devo chiedere un minuto di pazienza, c'è il traffico. Beh, intanto poi mi interessa anche capire se l'ha sentito in queste ore, al di là dell'ufficialità, qual è davvero il termometro di Massimiliano Allegri. 800 24 00 24, traffico. Evidente che i tifosi oggi sono disorientati da una parte, direi principalmente perché abbiamo perso una figura importante nella scacchiera della società. Tutti convocati. Capisco lo scetticismo dei tifosi perché in un giorno praticamente è cambiato l'allenatore della Juventus. Datemi mulini a vento, le chiavi del convento. Come conquistarli? Con i risultati, col lavoro, con il rispetto e con la professionalità. Sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re. È evidente che i tifosi oggi sono disorientati da una parte, direi principalmente, perché abbiamo perso una figura importante nella scacchiera della società. Quindi capisco quello che oggi attraversano i tifosi. Sì, l'abbiamo detto anche ieri, non è la prima volta che a Torino, e non solo a Torino, un allenatore, un giocatore viene accolto in questo modo. C'è il precedente di Carlo Ancelotti, il famoso maiale che non poteva allenare, però l'avete sentito, quello è il clima che ieri ha accompagnato i primi minuti, le prime ore di Allegri da allenatore della Juventus. 800 24 00 24, Pierluigi, ciao. Eccolo, come va? Siamo con il più grande conoscitore di Massimiliano Allegri, al secolo Giovanni Galeone, che ci sta raccontando un po' come ha visto Allegri in queste prime ore difficili, e vi abbiamo anche fatto sentire le voci, i rumori, le sensazioni. A te, Pierre, è piaciuto il primo Allegri? Mi è piaciuto, nel senso che è quello che può dire in questo momento, insomma. Non è che ci possa dire altro, non è che la sua immagine agli occhi dei tifosi della Juve che lo confessano possa essere cambiato dalla conferenza stampa. Quello è un lavoro che sarà lungo, che sarà anche difficile, perché come diceva ieri giustamente Tacchinardi, c'è il precedente di Ancelotti e lui ci ha raccontato ieri, lo dico a chi lo ha sentito, che è stato più pesante di come si è capito da fuori, cioè che anche quando i risultati arrivavano comunque c'era lontananza, estraneità verso quell'allenatore. E ieri Tacchinardi ci ha detto che con un po' d'apporto in più e di affetto in più da parte dei tifosi sicuramente la Juve un campionato l'avrebbe vinto in quei due anni in cui l'ha sfiorato, e quindi insomma non sarà facile. Però io penso che Allegri sia un buon allenatore, mi sembra assurda lo scetticismo, cioè mi sembra eccessivo lo scetticismo sempre in giro, insomma, c'è questa cosa strisciante che Allegri è un buon allenatore, l'ha dimostrato negli anni, insomma, può aver sbagliato delle cose come tutti, è un allenatore che ha ottenuto risultati, un allenatore che ha vinto, e non sono molti gli allenatori che hanno vinto in Italia in questo momento, e quindi le caratteristiche tecniche se noi ci sono per far bene. Quelle ambientali, quelle ambientali, chiedo a Galeone, possono essere un problema? No, non per Max, non credo. È un ragazzo, glielo dico ancora una volta, molto intelligente, molto equilibrato. che ha un grande carisma, credo che entrerà nell'ambiente con grande facilità. Sarà un problema con i tifosi, ma questo ho sentito le parole di Max in conferenza stampa ieri. Come conquistarlo? Lo conquisti il tifoso con i risultati, con il gioco soprattutto, e se migliori, se riesci a migliorare quello che è stato il comportamento della Juventus nella Champions, che sicuramente non è stato un ottimo comportamento, no? Perché si è trovata in un girone con due squadrette come Galatasaray e Copenaghen e non è riuscita neanche a qualificarsi ed è uscita anche dalla UEFA, insomma. Non ci vuole molto, secondo me, a fare meglio, Perché ripeto, Conte ha fatto non bene, ha fatto benissimo, soprattutto dopo il primo anno, ha fatto delle cose splendide, ha fatto giocare la squadra in maniera molto buona, in Italia è stato nettamente superiore, ma io continuo a ripetere che dietro aveva una grandissima società che si è comportata bene e ha saputo muoversi con intelligenza sul mercato, con grandissima intelligenza, facendo dei colpi che hanno stravolto anche il mercato italiano e anche le forze in campo. È l'idea che la Ferrari conti più del pilota, in questo caso che la Juventus conti più dell'allenatore. A proposito, la Juventus conta più dell'allenatore, porca miseria. La Juventus è una storia. E la famiglia Agnelli, che è una delle famiglie storiche italiane, ha sempre sostenuto questa cosa, da Giovanni Agnelli, ma ancora prima, cioè la Juventus è la Juventus, e poi gli allenatori passano, arrivano, tornano, non c'è mica un problema, no? Quando una società è organizzata bene, si muove bene sul mercato, quando riesce a portarti via Tevez al Milan, che può cambiare gli equilibri di una stagione, di una squadra nei confronti dell'altra, e ha un potere tale in Italia da vincere con 102 punti su un'altra squadra come la Roma, che ne fa 80 e rotti, insomma, io credo che bisogna dare un grande merito anche a... Certamente. Pier, poi cerchiamo di capire insieme, ad esempio ieri parlavamo molto della questione Pirlo, Allegri ha dato le sue risposte, Allegri ha detto non si deve cancellare, non si deve stravolgere il lavoro di Conte perché sarebbe da persone poco intelligenti, però io credo che difficilmente la Juve di Allegri sarà simile, uguale, in fotocopia alla Juventus di Conte, almeno io questa è la sensazione che ho avuto al di là delle parole, Pier. Ma dipende molto dal mercato. Se Conte è andato via perché evidentemente non era troppo soddisfatto di quello che stava succedendo sul mercato, penso, l'aveva già in qualche modo espresso, poi si può anche pensare che avesse delle pretese esagerate, però comunque sicuramente non era particolarmente soddisfatto di quello che stava succedendo e ci sono mille cose da capire, cioè, prima di tutto da capire se rimarranno Vidal e Pogba, se rimarranno tutti e due, perché chiaramente questo cambia la struttura del centrocampo. Io sono convinto che la questione Pirlo-Allegri, lo dicevo anche ieri, sia stata un po' sovrastimata dalla stampa e dal luogo comune, nel senso che sicuramente in quel momento lì Allegri ha pensato di poter prescindere da Pirlo o comunque ha avallato la decisione di non rinnovare un contratto molto oneroso. Era un Pirlo diverso da quello che abbiamo visto negli anni successivi, ma Pirlo ci ha sorpreso in questi anni. Se ci ha sorpreso vuol dire che quando ha chiuso la sua esperienza al Milan, qualcuno poteva avere il sospetto che fosse un giocatore in calo. Io avevo questo sospetto che fosse un giocatore in calo e mi ha stupito meravigliosamente nelle ultime tre stagioni. Credo che non ci sia stato un problema in assoluto di rapporto fra Allegri e Pirlo. Credo che ci sia stata una scelta tecnica fatta dal Milan che non voleva rinnovargli il contratto di un certo tipo, sembrava un giocatore in quel momento già un po' in discesa. Io ho fatto un grande e sulla quale si è innestata poi anche la valutazione di Allegri. Però insomma, io non credo che ci siano problemi personali fra i due. Io penso assolutamente che Allegri, Pirlo, l'abbia visto in questi tre anni, l'abbia apprezzato e lo consideri un elemento fondamentale. Quindi io penso che la cosa lì si risolverà. Dove lo fa giocare Pirlo, Galeone? Pirlo lo fa giocare dove lo fa giocare Conte. Cioè davanti alla difesa. Ho sentito finalmente delle parole intelligenti. Non c'entra niente il Pirlo della Juventus con il Pirlo del Milan. Il Pirlo del Milan è un giocatore che menava la polenta lì a metà campo tra la difesa e altro, senza mai verticalizzare, giocando a ritmi bassi su quella che era un concetto di calcio di possesso di palla dove la profondità non veniva mai cercata, e quindi palla a Pirlo, palla a Thiago Silva che la dà a Pirlo, che la dà a Nesta, che la dà a Pirlo, che la dà a Biatti, che la dà a Pirlo, che la dà a Seedorf, ed erano sempre lì. Adesso se Max voleva un gioco più veloce con gli inserimenti dei centrocampisti eccetera eccetera, aveva notato che aveva delle difficoltà a far cambiare la mentalità che aveva quel Milan, quel tipo di Milan che cercava poco. La Juve invece è diverso. Quando tu vai a giocare nella Juventus, dove se quando prende la palla un centrocampista Lichtsteiner non è già sull'ala sinistra perché altrimenti Conte gli corre dietro e lo mena con la frusta, o Asamoah dall'altra parte, cioè sono alla ricerca di una, della profondità in maniera incredibile, con veloci movimenti, con dettano i passaggi eccetera, un giocatore come Pirlo con la tecnica che ha Pirlo, ma nessun tonto lo mette in discussione. Sarebbe pazzo toglierlo dal posto, dalla cabina di regia. È un pazzo che toglie Pirlo da Juve. Pirlo è un grandissimo giocatore che ha sviluppato in questi tre anni di Juve, io sono d'accordo con quanto ha detto prima, non è migliorato, è proprio cambiato, ha giocato un calcio diverso, l'ha dimostrato anche in nazionale, perché l'unico che giocava le palle in verticale verso Balotelli era Pirlo. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie a Giovanni Galeone. Pier, ci sono tantissimi messaggi, c'è anche chi ti dice non dire stupidate con chi ha vinto Allegri con Ibrahimovic, così avrei vinto anch'io. Poi abbiamo tempo per rispondere, ci sono anche gli amici all'800 24 0024 Borsa. Sono stato chiamato qui per questo, perché la Juventus è una società che ha storia, che ha tradizione, è una società che sta costruendo il presente e il futuro. Io in questo momento devo pensare al presente e al futuro, ereditando una squadra che ha vinto per tre anni. Sono stati soprattutto i primi due anni affascinanti, soprattutto il secondo, quando io ero sull'altra panchina, e oggi sono qui per mettermi a disposizione della società, dei giocatori, e per cercare di contribuire a continuare a vincere a questa società. Tutti convocati. Aspetta, è difficile, dai. E agghiacciante quello che dicono, e agghiacciante che è una capra respiratoria. Pensi che il calcio possa essere rotondo? Tu non hai nessuna fiducia in Allegri. Io non lo so, sarei bugiardo oggi se dicessi che la fiducia in Allegri. Credo che la fiducia la devi meritare sul campo, arrivi. Juve, sei in luto o no? Diciamo che è stata la giornata del Millennium Bang. Chiaramente arrivi in un club che vince da tre anni, non è semplice, non sarà semplice, questo è certo. E agghiacciante quello che dicono, e agghiacciante che è una capra respiratoria. Pensi che il calcio possa essere rotondo? Ma quanto posso dare di più di Conte? Conte credo che, ripeto, ha fatto tre anni importanti, grandi risultati. Cercherò di andare a migliorare ancora questa squadra, soprattutto di andare a cercare di vincere il quarto scudetto e di fare, come ho detto prima, una Champions importante. E agghiacciante quello che dicono. Ma innanzitutto colgo anche l'occasione per salutare Allegri. Oh, allora io dico che un club poi ha diritto anche di fare le scelte che vuole, anche se evidentemente è tutto comprensibile quello che succede intorno alla Juventus in questo momento. C'è chi scrive, Giovanni da Bergamo: ho l'impressione che in Italia si dia troppa importanza ai tifosi, prima facciano lavorare Allegri e poi lo valutino. Mi sembra che questa è una posizione intelligente, Pier. Proviamo a sentire gli amici da casa, dai. Antonio dalla provincia di Lecce. Antonio, Conte, no. Antonio dalla provincia di Lecce. Io sono interista, tanto per precisare. Io ritengo che Conte abbia fatto una brutta figura, anche perché credo che il suo contratto non fosse condizionato all'acquisto di determinati giocatori. E se fossero stati acquistati quei giocatori che lui richiedeva, sicuramente lui non avrebbe preso l'obbligazione di dare la certezza di vincere determinati trofei. Detto questo, credo si è fatto una figura non bella. Ritengo che ci sia la scelta di Allegri, indipendentemente da tutto, non condizioni o non penalizzi la Juve, anche perché abbiamo avuto delle situazioni più o meno analoghe quando andò via Sacchi dal Milan, in cui subentrò Capello, intelligentemente, senza cambiare nulla, continuò a vincere. Io sì, non eravamo a metà luglio, Pier, è la tempistica che lascia semmai un po' perplessi. Ma infatti io ho fatto a lavorare, cioè c'è mezza squadra ancora in vacanza, quindi di fatto la Juve è una stagione che sta iniziando il precampionato. Sì, ma con chi ha fatto il mercato la Juve, ad esempio, nell'ultimo mese? Quel poco di mercato che è stato fatto, nel bene o nel male? Perché poi non è solo il momento in cui si ritrovano, cioè c'è una programmazione che inizia a marzo, ad aprile. Con chi l'ha fatta? No, questo infatti è il punto, è questo. È chiaro che se qualcosa non ha funzionato, insomma, io credo che insomma gira attorno quanto vogliamo, ma è ovvio che questa scelta non è una scelta personale, è una scelta politica, è una scelta tecnica di un allenatore che non si sente rappresentato e pensa di non poter fare meglio di quello che ha fatto con questa squadra. E poi, ripeto, secondo me è anche una scelta un po' frutto dell'emotività del momento, cioè sicuramente è una cosa alla quale Conte aveva pensato già a maggio, ma che sia successa a luglio, succede a luglio è perché evidentemente succede qualcosa di clamoroso che fa sì che la situazione poi possa deflagrare. Io ripeto, posso rispondere, prima c'è l'ascoltatore, sì, diceva che cosa ha vinto Allegri. Allegri ha vinto il campionato, Allegri ha vinto il campionato comunque con, è vero, c'era Ibrahimovic in quella squadra, però è anche vero che comunque era il primo anno, ha vinto il campionato al Milan, non è, se voi guardate le quote all'inizio di quell'anno lì, non è che il Milan fosse la super favorita del campionato. E l'anno dopo gli è successo di tutto, senza entrare nel merito del gol di Montario, delle polemiche, ma dal punto di vista strettamente tecnico, in quel Milan lì c'è stata qualche infortuni fuori dal mondo, c'è stata alcuni infortuni, addirittura quelli di Gattuso e Cassano, li ricorderete, extra campo. Sì, poi c'è stata la vicenda di Tevez che doveva andare a Milano e finito poi a Torino dopo. Io penso che nella vita ci sia anche di grigio. Allora, io, così come sto dicendo che secondo me se Conte va a allenare la nazionale per quello che ha fatto negli ultimi anni ce lo merita, è il nome che chiamerei perché per me è stato l'allenatore numero uno in Italia negli ultimi anni, ma non è che Allegri sia uno scemo, uno sprovveduto, uno che non sa allenare. Allegri è un buon allenatore, l'ha dimostrato a Sassuolo, l'ha dimostrato a Cagliari, l'ha dimostrato al Milan. A un certo punto al Milan non ci sono state più oggettivamente le condizioni per poter lavorare bene, è anche sicuramente colpa sua, non c'è discussione, però insomma non stiamo parlando comunque di un allenatore completamente privo di curriculum per allenare la Juventus. No, ma in questo momento non c'erano altre alternative, Pier. Si può discutere su questo. Forse era meglio Mancini, forse è meglio Allegri, non lo so, ma stiamo parlando di cose di questo tipo. Non è che tu hai avuto una grande possibilità davanti e l'hai buttata via. Intanto ti dico, Pier, che a proposito di quote, visto che le hai citate, i bookmaker, anche SNAI, abbassano le quote di possibilità di vittoria del campionato della Roma, ad esempio, mentre stanno alzando quelle della Juventus. Evidentemente la Juve di Allegri sarà considerata comunque meno forte, meno favorita rispetto a quella di Conte. Dario da Cuneo, Dario. Ciao, sì, io volevo solo fare due inviti. Uno al signor Agnelli, al Fido Marmotta, che prendano in considerazione l'idea di rimborsare le centinaia di tifosi che, come me, a metà giugno hanno fatto l'abbonamento con Conte in panchina e si ritrovano a metà luglio con questa comparsata. E non venitemi a dire che non sapevano niente, perché se Conte, ovviamente, se ne andava via giugno, l'80% degli abbonati quest'anno non lo rinnovava. Io non sono convinto di questo, però. Perché sapendo che mettevano in panchina uno come Allegri, le garantisco. Io ho fatto telefonate ai vari club, Juventus Club della provincia di Torino e Cuneo. Combinazione lunedì sera hanno avuto il termine massimo per portare i bonifici degli abbonamenti a Torino, scadeva, e combinazione il martedì sera è successo ricordo che quando il Milan riaprì la campagna dicendo va bene, abbiamo venduto Ibrahimovic e Thiago Silva, se volete vi rimborsiamo i soldi, si presentò praticamente nessuno di quelli che avevano già fatto l'abbonamento, perché poi dopo resta anche l'amore per la maglia. Secondo me adesso non vorrei invitare a una cosa poi maldestra, ma è una strada percorribile. Secondo me è una strada percorribile, potrebbe anche essere una provocazione elegante da parte della società a questo punto. E penso però che al di là dell'amarezza e dell'emotività del momento, è successo tutto 48 ore fa, quindi è chiaro che in questo momento il tifoso della Juve è arrabbiato emotivamente eccetera, ma magari già fra 20 giorni, quando comincia a rivedere in campo la squadra, le amichevoli, gli acquisti, poi magari la voglia andare allo stadio, torna. Sicuramente la tempistica è strana, però io onestamente non posso pensare al complotto, cioè non posso pensare. No, non lo penso nemmeno io. E che hanno aspettato la campagna abbonamenti, anche perché posso dire, questo vorrebbe dire che Conte si presta a un giochetto che francamente, insomma, cioè pensare una cosa del genere da parte di un tifoso di Juve significherebbe mettere una nuvola sulla professionalità di Conte. Sì, noi amiamo il retroscena, però questo è un retroscena estremo. Ha scritto tra l'altro proprio in questo momento Pierre un amico al 349-238-6666, si chiama Marco. Oggi ho revocato l'abbonamento allo Juventus Stadium. Ah, io non so se è possibile, però siamo qui anche per raccontarlo, magari nei prossimi giorni. No, ma come si fa a revocare un abbonamento? Se hai pagato l'abbonamento te lo tieni, al massimo lo cedi a un amico. Nel bene e nel male, ecco, prima si è fatto l'esempio di Ibrahimovic che venne preso nelle ultime ore di mercato dal Milan. E che fai? Allora se t'abboni prima e poi di comprare i primi ci fai, gli dai più soldi, cioè questo fa parte delle cose che possono succedere a una persona che si abbona con una squadra che poi può fare degli acquisti, può fare delle cessioni, questo lo sappiamo, insomma. Sì, ma quel retroscena lì è davvero un po' troppo, pensare che Conte si sia prestato a sto giochino con i bonifici e le scadenze degli abbonamenti della Juve. Oh, sai che a chi lo chiediamo? A un grande juventino, Marcello Chirico. Ciao Marcello. Ciao a tutti. Che sta elaborando il lutto e che immagino oggi abbia visto con piacere che Allegri twitta con l'hashtag fino alla fine. Le abbiamo chiamate le grandi manovre di avvicinamento al popolo juventino, dice grande motivazione, è uno di voi. E insomma, e come tanti altri, come Capello ad esempio, se negli anni scorsi ha parlato male della Juve, l'ha fatto perché un grande professionista difende la squadra per cui allena. A me devo dire la verità che non mi erano piaciuti i tweet della sua fidanzata, quelli non mi sono piaciuti, quelli che è normale che poi adesso lui allena la Juventus e parlerà bene della Juventus, dirà addirittura che il gol di Muntari, il pallone non era entrato, ma questo ci sta nell'ordine delle cose. Il problema è che noi siamo passati da un allenatore ipercarismatico a uno che, sì è vero, ha vinto nel Milan, però il Milan l'ha cacciato, cioè quando è stato testato da un grande club, Allegri non ha risposto alla maniera in cui probabilmente i suoi tifosi e la sua dirigenza si aspettava. Quando Marotta mi parla di vittorie col Sassuolo, vittorie di un buon campionato col Cagliari, ma cioè, possiamo paragonare la Juventus al Sassuolo e al Cagliari, cioè, io lo devo parametrare con altre grandi del calcio come possono essere appunto il Milan. Il Milan di questo allenatore se ne disfatto, e quindi ecco perché noi siamo così abbastanza perplessi. Io mi fa notare giustamente Franco Piantanida che anche Conte arrivò alla Juve con alle spalle il Bari, il Siena, non certamente un curriculum da grande. Allegri arriva alla Juve con un palmarès superiore a quello con cui Conte questo è giusto, sicuramente, e poi arriva con il palmarès superiore, arriva con una storia, è un esonero importante, cioè Conte non l'aveva questo esonero, lui arrivò da trionfatore dopo Siena, trionfatore dopo Bari eccetera, va bene Serie B, però comunque era un vincente. Se era stata a Bergamo, ma qui sai cosa ti dico? Che a noi gli scarti del Milan ci hanno sempre portato bene. David, Pirlo, adesso magari ci porta bene pure Allegri. Sì, ma hanno ragione Marcello i tifosi, quelli che stanno scrivendo, ho revocato l'abbonamento allo stadio, me l'avessero detto non l'avrei fatto, cercherò di restituirlo. Eh beh, oh ragazzi, noi siamo rimasti, io sono rimasto, oh, guarda che però non è da tifosi, il tifoso ama la maglia, il tifoso ama la maglia, a prescindere da chi la indossi. Questo, la Juve non si discute e non si discuterà mai per quanto riguarda noi juventini, cioè juventini dalla nascita. Io non la discuterò mai, l'ho sostenuta in Serie B, figurati se l'abbandono adesso. Però il problema è che io sono rimasto scioccato, io da uno come Conte non mi sarei mai aspettato un passo del genere. Cioè, a me va benissimo tutto, che probabilmente c'era rotto qualcosa, il rapporto si era rogorato e tutto. Quello che io non ammetto è che tu lo fai al secondo giorno di ritiro. Questo non è ammissibile, non è da Juventus, non è da Conte. Conte non mi può venire nemmeno a dire: ah, ma adesso sono stressato, sai che adesso si dice che è stressato, che non ce la fa, che ha detto. Ma scusami, io che ho più anni di Conte, ho più energie di andare lì a litigare. Tu non sei stressato, questo l'abbiamo capito. Aspetta, Marcello, aspetta. Tu non immagini un vincente come uno che fa proprio dell'adrenalina la propria linfa vitale, che ti venga a dire: non sono stressato, ma c'è dell'altro, dai ragazzi, non ci posso credere. Essere che non sia quella la versione, insomma, quella vera, non quella ufficiale. Però aspetta lì, Marcello, perché ci sono anche degli amici che scrivono e insomma pongono delle opinioni diverse dalla tua. Traffico. Convocati. Io lo vediamo, cosa sta? Spero di sì. Guarda, ho 90 anni. 54 miliardi all'anno. Quando uno vede queste cifre. Via, via, bravo, bravo, via, via. Io ho detto per primo io, Pirlo, assolutamente non si può. Poi mi hanno fatto dei riconti. No, no, Presidente. Sono fortunato e con Andrea non ci sono mai stati assolutamente problemi e mai ho messo in discussione le qualità di Andrea, anche perché veramente mi darebbe del matto. Quello che avete sentito ovviamente è un frammento di storia del calcio italiano, eh? Mercusta 54 miliardi, no presidente, via via, perché è l'altro pezzo della verità su Pirlo e Allegri. Oh, Pier, abbiamo un diluvio di messaggi. Però fammi dire una cosa in 30 secondi, la cosa di Pirlo veramente, non, cioè imputare il mancato rinnovo contrattuale di Pirlo al Milan solo ad Allegri secondo me non è corretto, perché fu un concorso di colpe. Perché quel Pirlo lì, come si diceva prima, non è stato quello che poi meraviglioso si è visto nella Juve, perché comunque la richiesta economica era importantissima, il giocatore aveva già una certa età e perché era la società soprattutto che non voleva. Quindi semmai si può imputare ad Allegri il fatto di non essersi imputato e non aver detto: io credo in questo giocatore così tanto, a rinnovare il contratto e aver avallato la cessione a una concorrente diretta. Questo non si può imputare, ma da qui a pensare che si odino o che Pirlo o che Allegri abbia detto: io Pirlo non lo voglio più, secondo me questo significa fare veramente mala informazione. Ha ragione Marcello quando dice che secondo me più che l'arrivo di Allegri, che ribadisco per me è un buon allenatore in assoluto, il problema è perché Conte se n'è andato. Cioè se io penso oggi il tifoso della Juve possa essere preoccupato per questo, perché è una certezza e l'ha persa in maniera clamorosa. E aver perso Conte in maniera così clamorosa vuol dire che ci sono dei problemi. Dei problemi che forse non conosciamo fino in fondo. Marcello, ma ha tradito Conte? Cioè, il tifoso juventino oggi si sente più tradito da Conte o ha più il sospetto di essere stato tradito da Agnelli, da Marotta, dalla società? Io voglio talmente bene a Conte perché so quanto ci ha messo e quanto devo a Conte per il fatto di essere stato lui l'uomo che ci ha fatto ritornare a vincere, che quindi non voglio pensare una cosa del genere. Di sicuro però, scusami, cioè la Juventus, quando Conte ha avuto bisogno della Juventus, ti parlo durante il calcio scommesse, beh, lui se lo ricorda come la Juventus si è schierata dalla sua parte. Lui questa volta non ci ha pensato due volte a prendere e mandare tutto a carte 48. Ma quindi lui si è comportato male? Cioè la percezione che avete è questa? Sì, inaspettata. Per come Conte, cioè io capisco che lui ha il suo bel caratterino, per carità, avrà avuto anche le sue buone ragioni, però non puoi fare una cosa del genere alla tua Juventus. Poi però se tu mi dici: ah, ma io guarda, non sono juventino, sono un professionista, ti ricordi prima della partita con l'Inter cosa disse? Oh, mettiamocelo in chiaro, che io oggi alleno la Juve, se domani alleno l'Inter sono neanche interista. Cioè, però noi l'abbiamo sempre definito come un nostro fratello. E poi ripeto, io a Conte devo tantissimo, perché la rinascita della Juve è partita da Conte, ecco perché sono preoccupato, perché è stata una bomba deflagrante in una maniera improvvisa e che può portare a dei danni collaterali che nemmeno ci immaginiamo, perché Conte l'ha ricostruita lui la Juve. Poi però, ripeto, lui in questo momento ha fatto passare avanti, ha anteposto i suoi motivi personali alla Juventus, cosa che invece la Juventus non fece quando si trattò di difendere lui per scommesso. Insomma, mi pare di capire che comunque sia è un po' cambiato il giudizio che ha la gente della Juventus su Antonio Conte. Grazie Marcello. Figurati, forza Juve sempre comunque. Ciao Marcello. Oh, poi ci scrivono, Pier, tanti, chi boccia Allegri prima di farlo lavorare un ignorante, va bene, restituite gli abbonamenti così scremeremo i tifosi veri dalla marmaglia. C'è anche chi dice, dopo 40 anni smetterò di tifare Juventus perché non capisco nemmeno quello che vuole dire Allegri. E poi ancora Marco, va bene, non andate perché l'abbonamento lo compro io, che ci sto provando da un po' di tempo. Quello che ci ha detto ieri da Chinardi, cioè che la Juve, lui che era dentro la società, dentro la squadra in quel momento, avrebbe vinto almeno uno scudetto se Ancelotti fosse stato trattato in maniera un po' più urbana dai tifosi, con un po' più di affetto da parte dei tifosi, è una testimonianza importante. Poi il tifoso, per me, ovviamente nel limite della non violenza, può fare quello che vuole, nel senso che se il tifoso non ti sopporta, ma non è che deve, cioè non è che è un lavoro fare il tifoso. Sì, va bene le parolacce, va bene la contestazione. Libero diritto, cioè io il tifoso della Juve che oggi dice non voglio più l'abbonamento, lo capisco e ha tutto il mio rispetto, perché ognuno nella vita fa con i propri soldi quello che vuole fare, e se ti senti tradito, ti senti tradito. Quindi calcio senza tifosi muore. Quindi, però ci riflettessero su questa cosa, no? Nel senso, ieri Tacchinardi ha detto al suo popolo, al popolo tifosi della Juve, guardate che se Ancelotti in quei due anni dei 144 punti con i due scudetti sfumati, un anno contro la Roma, un anno contro la Lazio, se avessimo avuto un po' più di affetto, un po' più di fiducia da parte dei tifosi nei confronti dell'allenatore, noi scudetto l'avremmo vinto. Io credo che questo sia, al di là dell'emotività del momento, sì, una lezione da tenere, una lezione da tenere in mente, essere felice, perché è chiaro che Conte ha fatto in questi anni delle cose straordinarie, però magari al dare una possibilità a Allegri può essere una cosa intelligente, piuttosto che accoglierlo con i pomodori prima ancora di cominciare. Poi il tifoso fa quello che ce ne può fregare di meno, questo è evidente, però attenzione, perché magari rischi veramente di creare problemi ancora superiori a quelli che già ci sono. Matteo dalla provincia di Modena. Matteo. Sì, salve. Grazie per la pazienza. Non mi togli dalla testa nessuno che Conte ha lasciato perché ha visto passare il treno della nazionale irripetibile. Secondo me gli proporranno un quadriennale e lui vedrà i mondiali del 2018. Sicuramente, io sono straconvinto. E poi per quanto riguarda Allegri, i fischi dei tifosi si trasformeranno in applausi alla seconda vittoria, ma il calcio è così. E per Pirlo, diciamo che Allegri non è così stupido da lo metterà al centro del progetto. Sì, anche perché in questo momento non potrebbe fare diversamente. Esatto. Io sulla nazionale non avrei certezze, carissimo Matteo, lo dico anche a te Pier, non lo escludo, però non avrei certezze, perché poi ci sono anche questioni di forma, al di là del merito se sia o no in questo momento il miglior allenatore italiano. Giovanni, ma la forma qual è? La forma è che se tu rompi con una società, poi capiremo in retroscena, però dopo 10 giorni renderti immediatamente disponibile per un'altra firma, e ripeto, stiamo parlando comunque di una rottura arrivata in queste condizioni a metà luglio, secondo me rischi di creare anche per te stesso una situazione ambientale non semplice. Il concetto del mercato, allora, nel momento nel quale loro fanno, è come il discorso dei Prandelli, nel quale fanno una rescissione consensuale, vuol dire che Conte, d'accordo con la società, non prende più soldi, o se prende una buona uscita sono problemi loro e sono tutti felici, no? Cioè non è che c'è una causa o qualcuno discontento, sono tutti contenti, tant'è vero che fanno le interviste insieme. A questo punto Conte è una persona libera sul mercato, è impossibile che abbia parlato con qualcuno, perché non sappiamo ancora chi è il presidente federale, quindi anche questa dietrologia la possiamo togliere, dovrebbe aver parlato con tutti i possibili candidati. E a questo punto chi arriverà dovrà chiedersi chi è il migliore allenatore per Nazionale in questo momento? Secondo me in questo momento è Antonio Conte. Sì, secondo me, però dentro quella domanda c'è anche chi è l'allenatore che sarebbe percepito meglio in questo momento. Io non so se 14 milioni di tifosi juventini percepirebbero nella maniera migliore questo passaggio. Lo so che non è una questione di mercato, ma pesa anche questo sulle scelte. Aspetta che riusciamo a fare al volo, chi c'è? Matteo? No, Stefano dalla provincia di Padova. Stefano. Sì, sono Stefano da Monselice, in provincia di Padova. Prego. Niente, anch'io sono juventino, però dicevo, prima si parlava di Allegri che appunto ha fallito nel Milan, è venuto la Juve, però anche Ancelotti ha fatto i 2 anni alla Juve e poi non abbiamo vinto niente, è andato al Milan, ha vinto tutto. Lo stesso Lippi poi ha abbandonato a metà campionato, è andato per carità all'Inter e ha fallito nuovamente, però è ritornato alla Juve e abbiamo vinto di nuovo. Sì, e poi c'è il precedente di Capello e quindi ci sono mille storie da raccontare. Ha ragione Stefano, perché poi alla fine, Pier, la verità è che la Juve aveva anche diritto di scegliere quello che voleva, certo. E noi fra 6 mesi saremo qui a tirare il bilancio e a raccontare. Oh, abbiamo finito, Pier, ciao, sì. A domani. Ciao. Domani torna Carlo Genta, Io ringrazio Franco Piantanini, autore di questa puntata, Claudia Schiattone in regia, Roby Scaltritti in regia anche lui. A domani, ciao. 54 miliardi all'anno.